Hashtag autotrasporti. Hashtag autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Questa settimana siamo in onda di martedì, ieri infatti abbiamo lasciato il nostro spazio abituale a effetto giorno per le cronache e i commenti sul referendum. Veicoli a guida autonoma o semi-autonoma che viaggiano su strade digitalizzate, dialogando costantemente con le infrastrutture per ricevere e scambiare informazioni. Quello che solo qualche tempo fa poteva sembrare un futuro lontano è ormai realtà. La tecnologia ha fatto passi da gigante ed è pronta a questo passaggio epocale per la mobilità delle persone come delle merci. I test per i veicoli a guida autonoma sono già partiti anche in Europa. Sperimentazioni sono in atto nelle aree metropolitane di Lisbona, Madrid e Parigi. Lo scorso aprile sulle strade europee è andato in scena il platooning, cioè si sono messi in marcia convogli formati da più tir controllati dal solo autista che stazionava nella cabina di guida del primo mezzo, praticamente un treno su gomma. Ma non è solo una questione tecnologica, fondamentale è l'aspetto normativo, quindi l'adozione di norme condivise attraverso le quali regolare un sistema di trasporti efficiente, sostenibile e rispettoso di una serie di principi fondamentali, come per esempio quello della privacy. C'è poi l'aspetto della sicurezza, pensiamo a quello che potrebbe fare un hacker, e quello relativo alle coperture assicurative. Un esempio, in caso di incidente come si stabiliscono le responsabilità? Insomma, la strada è ancora piuttosto lunga ed è in questa direzione che si sta muovendo la Commissione Trasporti dell'Unione Europea. Nei giorni scorsi la commissaria Violetta Bulc ha presentato le linee guida del piano Cooperative Intelligent Transport System e ha annunciato che i primi provvedimenti legislativi potrebbero essere adottati già nel 2018. Si presume infatti che già dall'anno successivo sulle strade europee possano circolare i primi veicoli a guida autonoma. Oltre alla definizione di un quadro di riferimento complessivo, il piano prevede investimenti che nel tempo supereranno i 3 miliardi di euro. Ma come può funzionare un sistema di mobilità digitalizzato? Lo abbiamo chiesto a Luigi Carrarini, responsabile impianti tecnologici di ANAS. Le varie componentistiche di collegamento che il settore automotive sta studiando dovranno poter agire sulle nostre strade europee in maniera indipendente qualunque stato noi stiamo attraversando. Allora, il problema è di capire come riuscire a collegare. Nel collegamento che abbiamo tra strada e veicolo dobbiamo distinguere due comportamenti. Ci sono dei servizi cosiddetti di sicurezza, di security, e servizi accessori con cui possiamo connettere l'utente a servizi esterni. La parte di servizi di security sono quei servizi che poi a brevissimo dovranno essere utilizzati per la guida autonoma. Da questo punto di vista dobbiamo avere certezza che il dato che provenga dalla macchina, che scambi con un altro veicolo vicino, ovvero scambi con l'infrastruttura, sia un dato certo. Qui nel prossimo futuro affideremo a questo trasporto di dati il fatto che un veicolo possa frenare o meno in funzione di quello che sta accadendo nel suo intorno. Su questa strada ANAS e l'Italia si sono incamminate già da tempo. Con le ultime gare che abbiamo fatto, soprattutto sulla Salerno-Reggio Calabria, abbiamo, credo, perfettamente centrato gli intendimenti della Commissione Europea. La Commissione Europea ha richiamato proprio all'accelerare l'introduzione di questi sistemi e noi stiamo, installeremo più che altro su queste strade sistemi che consentiranno sia la guida autonoma nel breve periodo, parliamo del 2018-2019, ma soprattutto installiamo un sacco di sistemi che ricadono nel cosiddetto IoT, Internet delle cose, che consentiranno ad avere una supervisione, un controllo perfetto di tutta l'infrastruttura stradale. Mi riferisco, diciamo, a sistemi che possano supervisionare in tempo reale ponti, viadotti, gallerie, strato del manto stradale, accessi condizionati sui nostri svincoli. E sempre a proposito di investimenti, 11 miliardi e mezzo di euro per opere pubbliche di competenza del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Il piano 2014-2020 è stato approvato dal CIPE. In particolare 5 miliardi e 300 milioni saranno destinati a interventi lungo le strade, poco più di 2 miliardi invece finanzieranno opere lungo la rete ferroviaria, le altre risorse al trasporto urbano, al piano metropolitane e alle ferrovie concesse. Prima abbiamo parlato dei trasporti e della mobilità del futuro con la necessità di armonizzare le opportunità offerte dalla tecnologia attraverso regole e principi condivisi, cioè proprio quello che oggi non avviene in Europa sul fronte dell'autotrasporto, inquinato da un mercato selvaggio favorito appunto dalla mancanza di un quadro normativo. Lo squilibrio è determinato dalla differenza dei costi operativi, cioè salariali e contributivi, a carico delle imprese dell'Est rispetto a quelle della cosiddetta vecchia Europa. Secondo i risultati di uno studio presentato di recente, se in Italia o in Francia la paga oraria media di un autista si aggira intorno ai 28 euro, in Bulgaria o in Polonia non supera i 10 euro. Questo determina il fenomeno del dumping sociale, al quale si collegano le pratiche del cabotaggio abusivo e della delocalizzazione delle imprese. Un tema che affrontiamo spesso in questa trasmissione, che è stato ribadito con forza dal ministro dei trasporti francese Alain Vidali nel corso della riunione dei ministri dei trasporti dell'Unione Europea avvenuta la scorsa settimana a Bruxelles. Vidali ha sottolineato la necessità di garantire il rispetto delle regole lungo le strade e ha proposto la costituzione di un'agenzia europea dell'autotrasporto con funzioni di coordinamento dell'attività di controllo. Recentemente, per conto di URAE, la società GIPA Italia ha scattato una fotografia del mondo dell'autotrasporto in Europa, focalizzando l'attenzione proprio sugli squilibri del mercato. Abbiamo intervistato Marc Aguetaz, che ha condotto la ricerca. Sono convinto, anche perché è condiviso, che in un'economia aperta ogni paese deve avere una legislazione di tutti i tipi che sia competitiva. Se no, l'economia aperta fa che gli imprenditori vanno dove è più efficace svolgere la loro attività. E l'abbiamo osservato in Italia con dei mezzi che non sono imbulonati, per far riferimento. Cioè, un camion lo prendo, lo sposto, lo reimmatricolo in un altro paese e continuo a operare con il mio portafoglio cliente qui, comprando, e lo vediamo molto bene nei bilanci delle aziende di trasporto, non più comprando dei servizi e non più avendo dei stipendi e degli ammortamenti per i collaboratori e per i veicoli che sono nel mio bilancio. Tornando ai dati delle immatricolazioni, c'è questo interessante, diciamo, questa interessante comparazione tra quello che è successo in Italia e quello che è successo in Polonia, giusto per ritornare al discorso iniziale. Ecco, possiamo dare qualche dato in questo senso? Quello che mi ha più colpito è che nel 2008 in Italia si immatricola 9.000 mezzi in più rispetto alla Polonia. Oggi è la Polonia che ne immatricola 9.000 in più dell'Italia. Quindi la dimostrazione è che il mercato del trasporto c'è sempre, facendo riferimento ai produttori, ma non sono più gli stessi luoghi che vedono immatricolati questi veicoli. Quindi tutta la fiscalità che è legata a un veicolo nuovo scappa anche. Quindi l'impoverimento è su tutta la filiera, compresa sullo Stato. Come abbiamo sentito, in un quadro di questo genere ci sono ricadute anche sul fronte dell'occupazione. In Italia il mestiere di autista di camion suscita sempre meno appeal nei confronti dei giovani, anche per effetto di una percezione dell'attività ancora tarata su vecchi schemi. Oggi, come si diceva in apertura, la tecnologia sta rivoluzionando i trasporti e la mobilità. Guidare un mezzo pesante dell'ultima generazione significa avere competenze e abilità da acquisire attraverso un processo di formazione. Alla formazione rivolta all'iniziativa avviata dall'Albo degli autotrasportatori in collaborazione con le associazioni di categoria. Tra queste, Confartigianato Trasporti, che da tempo sostiene il progetto. Abbiamo intervistato il presidente Amedeo Genedani. Oggi stiamo assistendo al fatto che non ci sono più autisti italiani, soprattutto i ragazzi giovani, perché per fare la professione bisogna logicamente prendere la patente, la CQC, e ha un costo mediamente di 5-6 mila euro. Quindi oggi ci stiamo attrezzando insieme, diciamo, affiancando anche quello che hanno già enunciato i costruttori di veicoli, per far sì di preparare di questi ragazzi che si vogliono avvicinare alla professione, aiutandoli a prendere la patente, magari anche impegnandoci in alcune situazioni a assumere questi ragazzi. Anche perché purtroppo invece in strada sempre più spesso ci sono autisti di altre nazionalità che dimostrano una preparazione inadeguata. Beh, senza ombra di dubbio, noi in Italia facevamo già formazione da alcuni anni, che si fa formazione nel merito, ma la formazione specifica per gli autisti non c'era mai stata, e soprattutto un accordo che viene portato avanti anche con le scuole guide, con gli enti preposti a portare, diciamo, a patentare questi nuovi ragazzi, e quindi a dargli anche una formazione specifica e magari anche un anno di prova presso l'azienda. Oggi mi fermo qui con hashtag Autotrasporti, ci risentiamo lunedì alle 13.45, torneremo quindi alla nostra collocazione abituale. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti.